Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Astronzi, dove state? Che fate? Dannate. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Nei libri dei collegi si insegnava la teoria del genere e questo è contro le cose naturali. Il Papa ha condannato la teoria gender. Ormai l'avete capito cos'è la teoria gender: è la negazione che la differenza sessuale tra uomo e donna sia nell'ordine della natura. Cioè, se uno dice io mi sono stufato di essere un ragazzo, voglio fare la ragazza da grande, allora non so se mi spiego, insomma, scusate, ma non so io. Ci aveva aggiunto allora il Papa anche a Napoli, è insidiata dalla teoria del gender, uno sbaglio della mente umana che fa tanta confusione. Questa è una trovata del diavolo, la teoria del gender. Finalmente è tornato il diavolo nelle parole di Don Livio Fanzaga, che abbraccio, direttore. Eccomi. Sì, della famiglia io sono. Direttore Minchino, padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Tu vendimi l'anima e ti mando alle stelle. Signori, sono le 6:33 minuti e siamo qui a 24 mattino. C'è Lorenzo Nespoli, come sempre, in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. E allora siamo qua. Sapete che una delle massime esperte della teoria del gender ce l'abbiamo qui oggi, eh? Sbrandata alle 6:34 minuti, eh? Lei negherà, ma insomma, si interessa di tutte queste cose del diavolo, peraltro. O no, cara Veronica, o no. L'ho inventato io il gender. Addirittura. Era giusto dirlo, perché tutti si chiedono: ma il gender esiste, non esiste, esiste, chi non l'ha esiste. Inventato? A questo punto è bene che qualcuno parli. Il gender l'ho inventato io. Oh, ottimo. Quindi me ne assumo la responsabilità. Elementi del diavolo. Mamma mia, il diavolo. Arriva il diavolo. E così vi abbiamo accolto alle 6:35 minuti insieme a Veronica Gentili. Ciao, come stai? Tutto bene? Niente. Sei là con me? È svenuta, sì, sì. No, sì, ah, scusami, pensavo parlassi con qualcun altro. Basta. Io nel frattempo sono... Sto bene, sai, noi che abbiamo inventato il gender, cioè, viviamo. Poi che all'inferno, lo sai, che tutto sommato ci sta bene. Ci si diverte. Allora, la nostra pensatrice del Fatto Quotidiano, cara Veronica, ora ti presento il condirettore della Pravda Italica, la verità, la verità. Ma che c'hai contro la verità? Anch'io scrivo contro la verità, guarda che te lo scateno contro, Ecco, allora, scrivi tu sulla verità, già comincio ad avere dei problemi, fino a quel momento eccolo era tutto lì, liscio, lo vedi? Perché lì, devi sempre andare a Massimo De Manzoni, attacca, attacca! Buongiorno. A quest'ora ci si sveglia tranquilli, sereni. Eccoci qua. Ecco, adesso ho un problema perché devo fare un po' renziano perché ho due antirenziani. No, come strano, ma smettila tutte le volte. Ma sai, Massimo, che continua a dirmi: allora mi chiama Sciocchina in onda, mi dice che sono renziano, mi dice. Perché? Ma non lo so, perché? Ti aspettavi che prendesse le tue difese? Senti che silenzio di tomba che c'è dall'altro lato. È la triste realtà dei fatti. No, mi sto interrogando sulla renzianità di Milan, vedi? Sì. Vedi che ho subito messo, no, instillato il veleno nell'orecchio anche a De Manzoni. Ecco, è bene che ci rifletti oggi nella giornata, Massimo. Cacciato immediatamente, ma non è vero, ma non è assolutamente vero. Allora devo fare il renziano perché qua, insomma, la verità, il Fatto Quotidiano, i due giornali che più attaccano Renzi, cosa devo fare adesso? Vabbè, niente. Fare il renziano perché il Sole 24 Ore ha qualche problemuccio e quindi devi stare attento. Ecco. Sai che il nostro beneamato Premier ha un occhio di riguardo sui giornali e sull'informazione. Vabbè, intanto in caso busso alla tua porta, comunque se nel caso, vabbè, fammi aprire. Faccio il Parlamento, appello al Premier comunque a trattarmi bene Milan, cioè se la prendesse sempre con me qualunque cosa deve fare mi trattasse bene Milan. Per favore, Matteo, trattami bene, esatto, dai. Facciamo un appello veramente, Matteo, per favore Milan no. Sì, sono anche in ginocchio a chiederlo in questo momento. Dai, ma no, ma io lo so, sono genuflesso. Sciocchina, tu mica hai di queste pruderie, no? Ti metti in ginocchio e via. Esatto. Allora, dai, apriamo il Parlamento, forza. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Oh, forza, vi ha piazzato subito Renzi, che è nella sigla, quindi. Allora, no, voglio partire però da Roma. A Roma, ragazzi, ogni giorno ce n'è uno di sviluppo. Qua, caro Massimo, adesso devo dire, ho letto a stralci una spettacolare intervista che avete riproposto di Stefano Lorenzetto di qualche anno fa all'assessore, il neoassessore Colomban. Ma sapete questa, Veronica? Questa non la sai neanche te. Guarda che ti arriva a Roma, È un indipendentista veneto. Invece ho già guardato. Ma sai... Visto la verità oggi, sì. Ma sai dove vive? Vive in un castello con quante stanze, Massimo? Diccelo tu, quante stanze ha questo castelluccio di Colomban? Da perdersi. Credo 260 stanze. Sì, ma penso che non siano riusciti a contarle esattamente neanche loro. Ma siamo assicurati che non sia l'attico di Bertone, che non convivano? Non lo so. Cioè, vive... Ma che personaggio è questo Colomban? Ma io l'ho conosciuto Colomban, è una persona veramente in gamba. Cioè, dopo adesso viene dipinto in tanti modi, ma è una persona a parlarci insieme almeno di estremo buon senso, per cui potrebbe persino fare bene a Roma. Potrebbe stupire. A Roma è difficilissima, come sappiamo. Però lui è una persona molto solida, che non si scompone di fronte a nulla e di grande buon senso. Sì, solida in tutti i sensi, anche economicamente. Mi sembra. Anche economicamente, si è costruito. No, è chiaro, ha fatto un'azienda che ha avuto grandissimo successo, poi l'ha venduta a un certo punto, no? A 60 anni più o meno. L'ha ceduta ai suoi manager. Sì. E si è ritirato in questo castello. Lui ha questa teoria che dopo i 50 anni, fine 50 anni si fa, fine 25 si impara, fine 50 si fa, dai 50 ai 75 si insegna. Quindi si trasmette quello che si è imparato. Fantastico. E si è fatto. Quindi, Veronica, è fantastico, tu sei ancora nella fase in cui devi imparare, entro i 25 anni. Certo, io sto ancora imparando, infatti vedi come ascolto e prendo dalle vostre labbra, sto cercando un attimo di orientarmi. No, comunque Colomban arriva dal suo, adesso si sorride, dal suo castello da 260 stanze, si butta nella palude romana. Ma non è tanto, io spero bene, perché qui ormai continuiamo a sperare bene, ormai ci resta solo la speranza, però voglio dire, l'unica cosa è che è chiaro che il fatto che sia un indipendentista veneto, che abbia questa storia qui, da un punto di vista così proprio estetico, non so come dire, un po' fa strano, cozza con quello che è l'immaginario collettivo di Roma, può addirittura sembrare una provocazione per alcuni aspetti. Però al di là di questo, insomma, alla fine mi sembra che questa giunta abbia avuto e abbia tuttora dei problemi molto più seri. Beh, abbastanza. Quindi se questo fosse un... Scusami, che dicevi? No, dico abbastanza, un po'... diciamo, insomma, che anche l'altro nome tra i due assessori, insomma, mi sembra che comunque ha suscitato più polemiche di questo alla fine. Mazzillo. Il celeberrimo assessore al bilancio che abbiamo atteso come l'annunciazione. Si sa. E tra l'altro, no, tu hai parlato di problemi seri. Guardate che oggi i giornali raccontano che Paola Muraro, l'assessore all'ambiente, ormai viene definita dagli stessi 5 Stelle in Parlamento una dead man, anzi una dead woman walking. No, sapete come i condannati a morte nell'ultimo miglio, no? Praticamente non reggerà, capito Massimo? Non reggerà. Bene, esce uno al giorno, poi la storia che aveva gli appalti dall'amante, cioè gli incarichi dall'amante, penso che sia stata una brutta botta. Questa me la sono persa, vedi che la verità, la Pravda, come gli incarichi dall'amante? Ma come Piscon? Come se l'è persa? Niente. Giorgina, dove eri questa settimana? Ma perché l'amante? Questa è porca miseria. Giorgina è candido, quindi lui queste cose non le vuole vedere. No, va bene, no, è giusto, ed è giusto. Ma no, noi gli appalti all'AMA così. Lo sapevo, ma che questo aspetto gossiparo. Ma come gossiparo? Ma non è gossiparo, gli dava gli incarichi. E forzando le regole, per cui c'è qualcosa. No, ma gossiparo che fossero amanti. Erano amanti, questo dalle telefonate si è vinto che fossero amanti, che fosse l'amante di Fiscon, e quindi che le consulenze così pagate in questo modo, come se fosse interna, pur essendo una consulente esterna, derivassero da questo. Quindi è un po' la parabola inversa della sguattera del Guatemala, capito? No, dai, no, fermati adesso, fermati. Io sintetizzo un attimo le faccende. No, ho capito, sintetizzi, ma poi guarda che c'è la querela facile, stavamo scherzando. Stavamo scherzando, però il discorso è così realmente, cioè una delle indagini aperte è per questo, è perché in qualche modo si suppone che ci sia stato un abuso d'ufficio e che le siano state date queste consulenze a dei prezzi assolutamente improbabili proprio per questa ragione, quindi che fossero, cioè, non è per speculare sulla vita privata, però fare che il motivo fosse questo. Va bene, e lì niente, va bene, Roma l'abbiamo sistemata, comunque adesso però arriva Colomban, vero che arriva Colomban. Nella stessa settimana ti sono lasciati Brad Pitt e Angelina Jolie, quindi tu avevi altri problemi. Io mi rendo conto che eri focalizzato su una cosa un po' più... Capito Massimo che è ambientino, che mi accoglie tutte le volte che chiamo Veronica Gentile. Me lo costruisci però. Sì, me lo costruisco. Grazie Massimo. È arrivato anche un bel messaggio, dice: per essere contro la teoria del gender basta guardare la differenza tra Alessandro e Veronica. Ma perché dicono così a sciocchina che è il più bello del mondo? È un ascoltatore. Non capisco. Allora, però, e non ti vede. Caro Massimo, cara Veronica, oggi anche sulla verità, caro Massimo, ve la prendete con il Presidente del Consiglio a dire che ha fatto una nomina, una nuova poltrona. Qual è la nuova poltrona che si sarebbe preso? Il vice direttore dell'AISI, Servizi Segreti Interni. Servizi Segreti. Come al solito lo sta facendo, forzando tutte le regole. Non ha i requisiti la persona che sta per mettere in quel posto lì, ma lui non è che si fermi di fronte a queste cose, l'abbiamo visto in tante occasioni, l'abbiamo visto recentemente anche con la Manzione, che è stata la sua pupilla, che andrà al Consiglio di Stato, anche lei non ha i requisiti. Cioè, stanno succedendo cose in Italia che io non vorrei usare la solita trita frase, però la uso. Stanno succedendo cose in Italia che se le avesse fatte Berlusconi ci sarebbe la gente in piazza. Ma questo Berlusconi adesso, come dire, ha qualche problemuccio, hai visto, che è appena sbarcato anche in America. Ma infatti, a proposito di questo, adesso non per saltare di palo in frasca, ma vi pare credibile davvero pensare che Silvio Berlusconi possa tornare. Cioè, adesso pare che i medici già gli abbiano detto non fare la campagna per il no referendum, per carità, non ce la fa, non gliela fai, cioè non gliela fai, c'hai 80 anni. No, ma non può tornare come prima, questo è evidentissimo. Sei in queste condizioni, io capisco, cioè Berlusconi è come un leone in gabbia, me lo vedo, ma io porto voti, ma io ma basta. Ma ha anche ragione che lui porta voti e che in ma qualche basta, modo lo so, purtroppo basta, ma più che altro perché gli fa male alla salute ormai. Per tanto tempo ci siamo preoccupati che facesse male alla nostra, alla salute del paese, ormai fa male alla sua. Invece non so, ecco, questo sì un ritorno che può portare voti. Vendola che si è presentato con le scritte referendum, ma l'avete visto con i cartelloni, invece di no referendum c'è scritto no referendum, hanno pure fatto il refusone. Niki Vendola, eccolo qua, il re di vivo. Questa riforma toglie spazio e diritti ai cittadini, rafforza il potere delle oligarchie, cancella la voce delle comunità locali e va in quella direzione che noi consideriamo veramente pericolosa, in cui contano solo gli esecutivi, i governi, che rispondono poi a potere finanziario internazionale. Cioè, guardiamo sempre al futuro. È una nemesi clamorosa per uno che parla in un modo incomprensibile, che poi ci sia il cartello incomprensibile. Refendo, ma è un paese che guarda avanti, cioè non so, è come se tornassero Pippo Baudo e Santoro in TV, cioè cose che... Ah no, appunto, infatti Pippo Baudo in TV e domani torna Santoro. Scusate, mi sono un attimo proiettato nel futuro, ma torniamo che, nel passato. Questa campagna elettorale americana, basta che tu guardi esteticamente i due candidati, ti fa capire che è inutile che ci facciamo ancora tutte le retoriche della rottamazione. Sì, in realtà è così, comandano i vecchi. Sì, comandano i vecchi. Comandano è un dato vecchi. Di fatto, solo che in America almeno non c'è il camouflage. Lo so, andiamo al traffico, va, con questa immagine, comandano i vecchi. Milan, o traffico, what cosa tentacolare. Mi dicono guarda la Gran Bretagna è uscita dall'Europa, guarda come vanno bene. C'è qualcuno che vuole informare del semplice fatto che ancora non è cambiato nulla, ma che usciranno fra 2 anni, per piacere? Caro Milan, anche 9 politici su 10 non sanno cosa voteranno, perché non ne sanno niente neanche loro, figuriamoci noi. Tutto il giorno viaggiare con Alino alla radio d'ascoltare, anche se ospiti e giornali fan cagare, l'importante è Alino d'ascoltare. C'è qualcuno che vorrebbe fare di questa campagna referendaria uno scontro all'arma bianca, noi invece salutiamo tutti con un sorriso, con molto affetto. Eccoci qua, vedi Veronica, è l'ora dei matti. Comunque devo dire che anche Lorenzo Nespoli nel darmi la scaletta mi ha scritto: ecco, questo è Renzi sul referendum con refuso. È proprio la parola, evidentemente, che non... Perché dopo inizia a venire la specie di rigetto, capito? Perché sono già mesi che andiamo avanti. Allora, per dare una variante, per farlo suonare diversamente, si levano le lettere. Cambiano i nomi, esatto. No, ma effettivamente, tra l'altro, a me colpisce questa cosa. Non so se colpisce anche voi. Ieri Nando Pagnoncelli ha scritto che un italiano su 10 sa bene i contenuti della riforma e 9 su 10 non tanto bene. Alcuni addirittura 4 su 10 pare che non sappiano proprio nulla di questo referendum. A me ha colpito Massimo De Manzoni, a te no? Beh, è presto detto, gli italiani sono un popolo che non legge i giornali, come ben sappiamo. E non guarda neanche la TV, perché ovunque se ne parla. In TV di referendum si parla poco, si parla in un certo modo, per cui è chiaro che non possono capire. Manca ancora un bel po' di tempo e saremo bombardati, per cui da qui al voto qualcuno in più che avrà informazioni sui contenuti ci sarà. Sì. No, ma è quello che io temo, è che saranno mal informati sui contenuti, e questo è un po' di mia paura. Io anch'io sono convinto, cioè sono convinto che il 90% di coloro che andranno a votare, poi di coloro che andrà a votare dirà: sono con Renzi, voto sì, sono contro Renzi, voto no. Questo è evidente, proprio, che va così. È brutale. Ma è ovvio che va così, probabilmente andrebbe così anche se ci fosse una domanda semplice che fosse veramente quella di riduciamo di metà, fosse una domanda proprio basica, cioè tagliamo di metà il numero dei senatori, semplice, per dico una cosa in astratto. Invece così, essendo comunque un quesito complesso, composito, perché ci sono più domande insieme, scritto in quel modo, perché deve essere scritto così, però semplificato in questa maniera, con il nome della legge, che è stato scritto non a caso in questo modo, sulla scheda elettorale, la gente non può capire, ma non capisce neanche, cioè comunque è vero. Guarda, che... Ha ragione Iena a questo punto, a pagina 3 della stampa, il suo graffio sulla stampa, praticamente è come è stata formulata la domanda del referendum. Referendum, ne fa uno Iena: volete vivere a lungo felici e contenti o morire tra dolori lancinanti? Votare sì o no? Più o meno. È così. Sì, Massimo De Manzoni è per il sì. Scheda, Massimo ragazzi. De Manzoni è per il sì. E Veronica Gentile, a questo referendum tu cosa rispondi? Come per il sì? Come no, dico volete sì. Vivere, volete vivere a lungo, felici e contenti o morire tra dolori lancinanti? Di Barenghi, Non lo so, io devo prendermi un tempo per pensarci. Abbiamo credo 3 sì, il sì vince con il 100%. Vabbè, sì. D'altronde, ragazzi, capito? No, ma più o meno è così, perché in realtà, cioè, anche sulle cose serie, quando stai negli eventi, capito, che dovrebbero essere quelli politici, io ho moderato un evento politico tra una persona per il sì e una per il no, e non capivano niente. Un evento sì, l'ho fatto, politico. Bene, sì. E sei stata imparziale, sei stata terza. No, però l'ho moderato. No, tutto il tempo si è scherzato. Davi pizzicotti a quello, che... a quello del sì, gli davi pizzicotti. No, quello del sì gli ho premesso dicendogli che sarei stata assolutamente faziosa e di parte, che dunque premettendo l'avrei cercato di anestetizzarmi. L'ho detto subito, quindi sono stata onesta. Però a un certo punto entrambi ho detto: vi rendete conto che neanche voi state capendo bene quello che dite, se può capire la gente davanti a voi? È così. Allora, diventa un confronto. L'altra sera la conversazione tra Renzi e Zagrebelsky, perché Renzi ha gioco facile? Perché poi lui la può buttare in caciara, iniziare a dire cose che sono molto più potabili per le persone, e le persone ascoltano più volentieri, perché piuttosto che sentir parlare di materie che di fatto non capiscono, preferiscono questo. Quindi lui fa le battute su Di Maio e sulle mail. Com'è che l'ha definito Zagrebelsky? Un'anguilla. L'anguilla l'ha definito. Mi ricordo che anche Forchielli non l'aveva definito un'anguilla, però in un altro senso. Vabbè, insomma, niente, non andiamo a sforcugliare. Cara Veronica e caro Massimo, qui ci dobbiamo fermare. Massimo, che dobbiamo aggiungere? Niente, basta. Vuoi dire qualcosa? Ci sarebbe MPS, ci sarebbe Banca Etruria, lo so. Però no, se vogliamo, se purtroppo il tempo è finito, e poi voglio dire, la questione delle banche è talmente, non vogliamo già distruggere il morale degli italiani che si svegliano alle 6:55. Teniamoli un po' su di morale almeno fino alle 7, fino alle 7:15, ecco, fino alle 7:15. Tempo del caffè e poi arriva la mazzata. E poi dopo arriva la mazzata sulle banche. Allora, grazie a Veronica Gentili, grazie a Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Ci risentiamo alla prossima. Ci giochiamo in 2 mesi i prossimi 20 anni. È una sfida pazzesca, molto più grande della mia personale carriera o del mio governo. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan. Anche quelli di Roma. E Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia. Perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Eccoci qua, cari ascoltatori, eccoci, siamo pronti a leggere i giornali della rassegna stampa di 24 mattino. No, non ci fanno schifo i giornali della Sicilia, se arrivassero peraltro. Peraltro oggi parleremo anche un po' di Sicilia dalle 8:15, però intanto andiamo a leggere i quotidiani. Che spettacolo, che spettacolo. Martedì 4 ottobre, siamo qui con i titoli, le aperture. Il Sole 24 Ore apre sulla questione banche, Good Bank e caso Deutsche, le contromosse del tesoro. Padoan dice non sono in vista nazionalizzazioni di banche. Anche per la stampa questa è l'apertura. Banche da salvare tra Italia e BCE e braccio di ferro. Roma spinge per far partire il piano. Manovra tutti i dubbi di Banca Italia, questo è il sottotitolo della stampa ed è il titolo per molti quotidiani come apertura, per il Corriere della Sera per esempio, Banca Italia dubbi sulla crescita, e Repubblica, Banca Italia gela Renzi, troppo ottimismo nei numeri del DEF, così il Messaggero, troppo ottimismo sul PIL. Per il Fatto Quotidiano addirittura la manovra è un falso in bilancio, crescita drogata. E anche il Giorno, cannonate sulla manovra. Mentre La Verità apre le mani di Renzi sui servizi segreti, forzando tutte le regole, il Premier impone un suo fedelissimo come vice direttore dell'AISI, appunto i servizi segreti. Altre aperture, l'apertura dell'Unità dalla parte dei migranti, Lampedusa ricorda le vittime del tragico naufragio del 2013, ieri salvati 6.000 profughi, mentre il Manifesto sta con le donne che in Polonia vanno in piazza per scioperare contro la legge sull'aborto che introduce il divieto di aborto anche in caso di stupro. Ferme tutte è il titolo del Manifesto in prima pagina. Voglio però partire nel raccontare la storia di una persona, come lo fanno Repubblica e il Fatto Quotidiano, una persona che era diventata già celebre, una persona che dovrebbe essere raccontata in quello che ha fatto in tutte le scuole, dovrebbero fargli una statua, dovrebbero ringraziarlo, dovrebbero portarlo tutti su un palmo di mano, il sistema dovrebbe ergerlo a colui che ha fatto quello che tutti dovrebbero fare, e invece è stato di fatto isolato e cacciato. Questo signore si chiama Andrea Franzoso, e già i giornali avevano raccontato di un'inchiesta all'interno di Ferrovie Nord Milano, perché grazie alle segnalazioni di Andrea Franzoso, dirigente di Ferrovie Nord Milano, erano stati scoperchiati alcuni problemi, soprattutto le cosiddette spese pazze dei vertici di Ferrovie Nord Milano. Questa è l'accusa che ha fatto Franzoso, un whistleblower, cioè uno che dall'interno ha denunciato qualche magagna, qualcosa che ha visto che non andava bene nell'azienda in cui lavorava. Oggi c'è un profilo di Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, racconta che ieri è stato l'ultimo giorno di lavoro di Andrea Franzoso, funzionario dell'internal audit del gruppo Ferrovie Nord Milano, che ha denunciato le spese pazze dei precedenti vertici e che dopo aver tentato una causa, dopo aver visto le carenze legislative, il primo verdetto contrario, ha preso atto del disinteresse delle istituzioni, ha rinunciato all'appello e ha preferito risolvere per sempre i suoi rapporti con Ferrovie Nord Milano e se n'è andato. Repubblica lo intervista. Matteo Pucciarelli a pagina 18. Io, rimasto senza lavoro per aver denunciato il capo. Ho perso, ma lo rifarei. Fino a ieri Andrea Franzoso, 39 anni, era un funzionario delle Ferrovie Nord Milano partecipate dalla Regione Lombardia. La sua colpa? Avere parlato troppo denunciando spese pazze, 600.000 euro del vecchio presidente Norberto Achille. Ed ecco qui che racconta la sua storia. Presentai nel 2015 un esposto ai carabinieri. Avevo tre possibilità: farlo in modo anonimo, come fonte confidenziale o con nome e cognome. Scelsi questa terza possibilità. Ma questa la tutelava di meno. Ma era giusto metterci la faccia. Non volevo nascondermi, non volevo avere paura. Ho visto la voracità con la quale si spendevano i soldi. Faccio un esempio. Achille si comprò le Hogan, 330 euro con la carta di credito aziendale. Poi, non contento, se le fece rimborsare pure. Un paio di scarpe costò all'azienda 660 euro, capisce? Sì, ma lei sapeva di non avere tutela giuridica piena. Sì, ma l'ho considerato un necessario atto di disobbedienza civile. E i colleghi? Beh, i colleghi mi dicevano bravo in ascensore, poi riaperte le porte. Eravamo degli sconosciuti. Poi arriva il successore di Achille, il leghista Andrea Gibelli, e lì iniziano i miei problemi. I miei incarichi vengono affidati a consulenti esterni, mi ritrovo a fare nulla. Mi son letto un sacco di romanzi nel tempo libero in ufficio. Mandavo mail per chiedere informazioni, mi rispondevano formalmente ancora i suoi incarichi, però li svolgevano altri. 4 mesi dopo l'arrivo ho parlato con il presidente Gibelli, chiedevo di essere ricevuto da tempo, fu molto ossequioso, mi disse di non preoccuparmi, che c'era una riorganizzazione in corso. Alla fine mi crearono un ufficio ad hoc con pochissimo da fare. Ma i sindacati la difesero, c'è sempre stata indifferenza da parte loro e la cosa mi ha ferito umanamente. Ma guardi, vivo tutto con grande disincanto, il processo all'ex presidente non è ancora cominciato dopo 1 anno e mezzo e intanto la prescrizione si avvicina. Chi autorizzò le sue spese è ancora un dirigente di Ferrovie Nord Milano e continua a percepire premi di risultato. La verità è che ho perso. Però, di fronte alla domanda ne è valsa la pena, dice, forse è stato inutile, ma lo rifarei 100 volte. Il problema è culturale, occorre tempo, insieme gesti come penso il mio. Vorrei che si capisse che la corruzione è nemica della giustizia sociale. Eccolo qui, Andrea Franzoso, leggete su Repubblica la sua storia. Se vorrà, noi lo inviteremo perché mi sembra giusto sentire assolutamente la sua versione. Certo, fa sempre, lascia sempre l'amaro in bocca capire e vedere che poi queste persone vengono isolate e messe in condizioni di andarsene, come il suo caso. Oh, se siete appassionati alla vicenda che Claudio Gatti ha scoperto sul Sole 24 Ore della vera identità presunta ma sempre più certa di Elena Ferrante, la scrittrice più misteriosa al mondo, che però attraverso un'inchiesta alla Follow the Money di Claudio Gatti, che è andato a scoprire chi durante gli anni in cui sono stati pubblicati i libri di Elena Ferrante si è molto arricchita, grazie ai generosi contributi della casa editrice di Elena Ferrante, e quindi presumibilmente Elena Ferrante è davvero lei, vale a dire la traduttrice dal tedesco Anita Raia. Beh, oggi Claudio Gatti, se siete appassionati su questa vicenda, torna sul Sole 24 Ore perché c'è stata anche una controffensiva molto dura dell'editore Sandro Ferri, che ha accusato di quasi di violenza, di intrusione nella privacy, questa inchiesta di Claudio Gatti, che oggi sul Sole 24 Ore torna a scriverne in prima pagina. Elena Ferrante, la fama mondiale, il diritto di sapere. Scrive Gatti dal New York Times alla radio TV australiana, da Liberazione alla BBC, da Der Spiegel a Radio Nacional de España. I media di tutto il mondo hanno ripreso lo scoop sulla vera identità di Elena Ferrante, pubblicato domenica sul Sole 24 Ore. E ancora più intensa è stata la reazione dei fan della scrittrice partenopea nei social media. Racconta Claudio Gatti, dopo le reazioni dell'editore, che Elena Ferrante è un personaggio pubblico e a sostenere ciò non è il Sole 24 Ore, ma la stessa autrice e i suoi editori, che hanno pubblicamente riconosciuto come sano il desiderio a scoprire chi è. Insomma, la prima poi a violare la privacy di Elena Ferrante è stata proprio Elena Ferrante. Quando la scrittrice ha detto di avere 3 sorelle, la madre era una sarta napoletana inclina a esprimersi nel suo dialetto e che lei aveva vissuto a Napoli, un'inchiesta, la nostra, che ha dimostrato però che niente di tutto questo corrisponde alla vita personale della scrittrice. Quindi, insomma, Claudio Gatti difende la legittimità di questa inchiesta, anche il diritto a sapere, mentre Michele Serra oggi su Repubblica si scaglia in qualche modo contro questa inchiesta. Il titolo è: lasciate a Ferrante il diritto all'assenza. Uno scrittore non va giudicato dalla faccia o dal nome, ma dal libro. Mi annovero tra quelli che ci sono rimasti male, racconta Michele Serra dopo questa inchiesta, un poco perché il diritto all'assenza è nella società presenzialista uno dei più precari e dei più violati, dunque dei più ammirevoli. Un poco perché lo smascheramento di Ferrante mi sembra perfettamente coerente con un processo di svalutazione del testo e di sopravvalutazione del contesto, che è uno dei grandi mali culturali della società mediatica. E poi Michele Serra fa una lunga analisi che continua a pagina 33 di Repubblica e si conclude così: la ricaduta meno prevedibile di questa inchiesta è invece che anche io nel mio piccolo sono dispiaciuto di non poter più fare congetture poetiche sulla vera identità e appunto pensarla anch'io parrucchiera o suora o portantino dell'ospedale. Era più interessante il silenzio, il non nome, la non faccia, le non fotografie. Ho già nostalgia di Elena Ferrante innominata e continuerò sempre a non nominarla. Così Michele Serra, perché ho già nostalgia di Elena Ferrante. Questa inchiesta, questo scoop di Claudio Gatti davvero fa parlare in tutto il mondo. Va bene, siamo all'articolo che mi fa più sorridere della giornata, invece l'articolo da Mani sul Volante, e ci siamo ancora. Antonio Pitoni racconta sulla Stampa, pagina 16, dei 59 nuovi furbetti, stavolta pizzicati a Milazzo in Sicilia. Furbetti de che? Furbetti del cartellino, che timbravano in comune e poi andavano Kia in un centro massaggi, chi a fare shopping, chi si a concedersi un po' di relax con passeggiate, chi in palestra ad allenare la squadra di basket. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Questo Milan mi fa sognare questo Milan dell'informazione! Eh sì, cari ascoltatori, tra l'altro questa sigla in cinese stretto, in mandarino stretto, ci porterà poi alla fine il titolo della Gazzetta dello Sport. Tenetevi forte, tifosi del Milan, il Milan, i cinesi. Tra poco. Però intanto Banca Italia. Allora, Banca Italia ha posto dei dubbi sulla crescita. Per la verità, anche in Parlamento ci sono dei dubbi sulla manovra economica che avrebbe fissato gli obiettivi ambiziosi sulla crescita, forse troppo. Questo è ciò che dice Banca Italia, come racconta Davide Colombo a pagina 7 del Sole 24 Ore. Ambizioso, così il vice direttore generale di Banca Italia Luigi Federico Signorini ha etichettato l'obiettivo del PIL programmatico all'interno della manovra. Ambizioso, il PIL all'1%, e questo è un po' tra i titoli da bocciatura, stroncatura, altolà. Addirittura il Fatto Quotidiano a questo punto titola in prima pagina: è una manovra da falso, com'è esattamente la dicitura. La manovra è un falso in bilancio. La reazione di Renzi è affidata a un retroscena di Alberto D'Argenio a pagina 3 di Repubblica. Renzi respinge tutte le accuse, dice ai suoi: per noi non cambia niente, andiamo avanti con i numeri che abbiamo approvato la scorsa settimana. Questo è il messaggio che su input di Renzi ieri sera correva sulle linee telefoniche che collegano Palazzo Chigi al Ministero dell'Economia. Saranno le Camere, ascoltate le opinioni di ieri, a esprimersi, spiegava un membro del governo. La legge di bilancio sarà pronta verso la fine della prossima settimana. E qui c'è un po' la linea difensiva, e cioè, secondo il governo, i tecnici che hanno definito ambizioso questo piano non conoscono i dati inseriti per calcolare la crescita del PIL. E dunque questa bocciatura c'è stata. Comunque si litiga sul DEF. Ci si interroga invece sulle banche, soprattutto il salvataggio delle, o meglio, chi rileverà le quattro banche che sono state salvate, tra cui Etruria. E sulle banche oggi vi segnalo intanto Marco Ferrando e Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore, Good Bank, caso Deutsche, le mosse del tesoro. Ieri c'è stato questo super vertice con le banche. E come scrive il Sole, in effetti di super c'è stato il parterre, perché c'erano il governatore di Banca Italia, il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Costamagna, il direttore generale dell'ABI Sabatini, il presidente dell'ACRI Guzzetti e altre personalità, oltre ovviamente al ministro dell'Economia. La riunione, secondo varie fonti, si è concentrata sulle partite più calde del settore bancario, dal nodo Good Bank allo smaltimento dei crediti deteriorati. E sulla questione del nodo Good Bank, l'interesse di UBI è quello su cui si concentra. L'interesse di UBI per Nuova Banca Marche, Popolare Etruria e Carichieti c'è, forse non è moltissimo, comunque inferiore a quello che nei mesi scorsi si era avuto per il Banco Popolare al Monte dei Paschi, ma è sufficiente per arrivare al progetto di un'integrazione. Nella pratica, però, rischia di rimanere soffocato tutto dalle condizioni poste dalla vigilanza, ritenute talmente onerose da rendere l'operazione più un salvataggio che una vera e propria acquisizione di mercato. Così almeno pensano al vertice di UBI, e il mercato pare essere d'accordo, da quando infatti c'erano le voci di un interessamento di UBI per le banche nate dal salvataggio, il titolo di UBI ha perso oltre il 15%. Questa conferma il fatto che si annoverano più oneri che onori dall'integrazione con istituti in via di risanamento. Tra l'altro anche su questo scrive La Stampa, pagina 2, Paolo Baroni, la mossa sorpresa del governo per salvare le quattro banche, del vertice blindato al tesoro con Banca Italia, Cassa Depositi e Prestiti e i colossi del credito. La linea del governo è in realtà l'operazione UBI non può fallire, come dire, è l'unica al momento in campo. Mentre il Fatto Quotidiano, sempre a pagina 2, si concentra su un'altra banca che è Unicredit. Tutti guardano Montepaschi, ma il vero guaio è Unicredit. Questo almeno scrive Carlo Di Foggia a pagina 2 del Fatto Quotidiano. È il capitolo più spinoso, secondo il Fatto. È l'unica banca italiana sistemica che ha bisogno di capitale per risolvere il nodo delle sofferenze, 51 miliardi il valore lordo. E anche le debolezze ereditate dalla campagna acquisti dei tempi di Profumo nell'Europa dell'Est. Lo scenario sul tavolo dell'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier non è dei migliori. Il nuovo management lavora ventre a terra per chiudere entro l'autunno il piano industriale da presentare a dicembre, varare un aumento di capitale da fare nei primi mesi del 2017. Dai primi i rumors si indica una cifra non inferiore a 13 miliardi il fabbisogno di patrimonio di Piazza Gaio Lenti, ben più alto dei 7-8 finora circolati. Secondo una ricognizione si potrebbe arrivare addirittura complessivamente a un fabbisogno che salirebbe attorno ai 18 miliardi, una cifra gigantesca che ha spinto l'amministratore delegato Mustier a far subito alcune cessioni, liquidando quote di minoranza di Fineco, la banca online, e della controllata polacca Pekao. Questa è la situazione molto molto, come dire, confusa e in evoluzione sulle banche. Oggi troverete moltissimo. Sul tema governo vi segnalo l'apertura della Verità, che accusa Renzi di aver messo le mani anche sugli 007, cioè sui servizi segreti. Continua, secondo la Verità, la sistematica occupazione dei posti da parte del Giglio Magico. Forzando le regole è stato nominato il vicepresidente, vice direttore per la Verità del Servizio Segreto Interno, che è l'ex capo della sede di Firenze, nonostante non abbia i requisiti richiesti. Scrive la Verità riguardo agli 007 e ai servizi segreti. A proposito di Renzi, Renzi ha frenato ieri sull'Italicum. Nessuna proposta per la nuova legge elettorale, questa detta Radio Popolare, nessuna proposta nuova, aspettiamo le scelte degli altri. Disponibile a cambiare, andrò a vedere le carte, ma si lavora una mediazione, ma sono gli altri che devono fare le prime mosse. Va bene, intanto c'è grande polemica sempre sul Comune di Roma. Sul Comune di Roma. Perché mi viene in mente Roma? No, basta, basta Roma, basta Roma. Basta Roma-Inter. Tra poco però capiremo che succede al Comune di Roma. Intanto un redivivo, Mauro Meazza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. In che senso redivivo? Nel senso che avrai smaltito la delusione. Il contraccolpo, insomma, sono molto curioso in realtà del titolo della Gazzetta. Sì, e la Gazzetta dice che i cinesi, forse quelli nostri, i cinesi, intrigo a China Milan. Intrigo a China Milan. Tutti i dubbi sulla natura finanziaria dell'operazione. Va bene, leggeremo la Gazzetta doviziosamente questa volta. Invece tu religiosamente leggerai Norme e Tributi come tutti i giorni. Come sempre. Bravissimo, perché allora leggendo Norme e Tributi religiosamente come ti si confà, vedrai che ci sono state delle istruzioni molto importanti dell'Agenzia delle Entrate per ricominciare i pagamenti a rate nel caso si fosse stati sospesi nello scorso anno. E ci sono state appunto queste istruzioni di cui riferiamo, fai attenzione, segnatelo, perché entro il 20 ottobre però bisogna presentare l'istanza per ricominciare a pagare a rate, e poi devi pagare naturalmente, certo, anche se a rate. Oh, poi ti dovresti segnare, se hai l'agenda, marzo 2067, hai un'agenda abbastanza lunga. Sei qua, 2000. Perché? No, perché porca, finisce il 2066. Perché marzo 2067 sarà la scadenza del BTP a 50 anni, che oggi verrà lanciato, lo leggi sul spero che dia un interesse del 28%. No, insomma, però parliamo di un 3, intorno a un 3, che non è proprio cosa, in realtà è un, come spiega il Sole 24 Ore di oggi, è un tipo di strumento che si addice a chi ha prospettive lunghe, che so, compagnie di assicurazione, fondi pensione, eccetera. Però questa innovazione mi sembra particolarmente interessante, te la segnalo, la trovi sul Sole 24 Ore. So che già hai letto, hai dato notizia della nostra pagina 3 sulle vicende bancarie. Ecco, volevo invitarti anche a meditare su questo articolo di pagina 2. Oh, poi naturalmente oggi non ti devi dimenticare di acquistare in edicola la famiglia. Certo. La famiglia nel senso che i tuoi diritti, questa collana di fascicoli che stiamo proponendo ogni martedì, questa volta è dedicata appunto alla famiglia. Tra l'altro la famiglia, ma anche vuol dire unioni civili, vuol dire i contratti di convivenza, insomma tutte le novità che ci sono state anche quest'anno proprio per quanto riguarda il diritto di famiglia. Non venire a cercarmelo al bar, perché guarda che non te lo do. Vai in edicola e ritira la copia. Oh, poi tu che sei così sempre attivo su Twitter, sai che Google si sta per comprare Twitter, lo leggi sulle pagine di finanza, che tu avidamente compulserai come ogni giorno. Vedo, ovvio, sento che stai compulsando, bravo. E poi tra l'altro Google oggi dovrebbe presentare anche il suo smartphone, il suo telefono personale. Oh, un'ultima cosa, ma in realtà molte altre ce ne sarebbero, già hai parlato dello scoop della Ferrante, che è così, che ha diviso gli animi, vabbè, insomma, si è data una notizia, mi sembrava doveroso farlo, e ti volevo parlare delle vendite delle automobili, perché le immatricolazioni sono cresciute del 17,4%. Sarà una buona notizia, non lo sarà? Tu leggi su Imprese e Territori, come sempre devi fare, leggi tutti i particolari. Io per il momento mi fermo, aspetto, anzi vado a comprarmi la Gazzetta dello Sport, ecco, perché voglio capire cosa succede. In casa Milan, ma chi è veramente Alessandro Milan? Ma traffico! Bentornato Alessandro Milan, il prelato che legge i giornali religiosamente. Vabbè, liberi tutti! Allora, cari ascoltatori, mandate le vostre sigle straordinarie, come sempre, al 349-238-6666, un numero WhatsApp, quindi mandatele in audio e si sentiranno molto bene. Allora, a Roma, dicevamo, Grillo e Casaleggio sono andati a Roma, dicendo verremo spesso. Insomma, la situazione lì è da tenere un po' sotto controllo, questo secondo i vertici del Movimento 5 Stelle. Ovviamente nel centro del mirino mediatico c'è sempre Paola Muraro, assessore all'ambiente. Sapete come negli stessi ambienti del Movimento 5 Stelle, raccontano alcuni giornali, è definita una dead woman walking, no? Come si dice, dei condannati a morte, ovviamente in maniera molto brutale, questo a dire che secondo tutti i giornali ha davvero i giorni contati. Secondo il Corriere della Sera, Alessandro Trocino, a pagina 8, è talmente coi giorni contati che Virginia Raggi non si può permettere altro tempo perso con l'ennesimo assessore vacante, e dunque bisogna trovarsi pronti, e già si sta trovando il sostituto di Paola Muraro, che non potrà reggere l'onda mediatica di ancora quello che viene scritto oggi. Muraro è il manager di Mafia Capitale, indagati per le parcelle lievitate. Questo è il titolo di pagina 9. Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, inchiesta su lei e Panzironi, l'assessora querela Renzi, c'è stato anche questo gioco di querele, botta e risposta più che gioco di querele, Paola Muraro ha querelato Renzi che l'ha associata a Mafia Capitale, e poco dopo Il tesoriere del PD Bonifazi ha querelato la Raggi per lo stesso motivo, cioè perché ha affiancato Renzi a Mafia Capitale. E alle colpi di querele, intanto anche il Messaggero, gli incarichi d'oro alla manager, indagato l'ex amministratore delegato dell'AMA Panzironi, la procura al lavoro su 7 anni di consulenze per un valore complessivo di 500.000 euro, tra questi anche le consulenze a Paola Muraro e, ripeto, i giornali dicono è un assessore ormai più che in bilico, molto più che in bilico. A proposito di assessori, vi sottopongo una straordinaria intervista come quella che sa fare lui, un maestro, il maestro con la M maiuscola delle interviste, Stefano Lorenzetto, intervista, o meglio, sulla verità viene riproposta un'intervista che fece al neo assessore a Roma Massimo Colomban, assessore alle partecipate. Un'intervista di 2 pagine, pagina 6 e 7, è la storia di Massimo Colomban che nella prima parte della sua vita, secondo la sua filosofia, fino a 25 anni si impara, fino a 50 si fa e fino ai 75 si insegna. Ecco, nella sua prima parte di vita ha fatto un'azienda, la Permastelisa, che fatturava allora 2.000 miliardi di vecchie lire con 4.500 dipendenti, quotata alle borse di Milano e Singapore, sedi in una ventina di paesi. Poi ha venduto tutto, ha ceduto ai suoi manager l'azienda ed è andato a ritirarsi a vivere nel castello dove vive ancora, un castello, racconta Stefano Lorenzetto, con 260 stanze e 400 finestre. Lì vive Massimo Colomban. C'è anche la foto di questa reggia vera e propria, e c'è questo colloquio di Stefano Lorenzetto, ovviamente per retrodatato, l'intervista è di qualche anno fa, del 2002 addirittura, e racconta insomma la sua filosofia di vita, il rapporto con questa casa, con questo castello. Non c'è ovviamente quello che farà oggi a Roma, ma è un bel ritratto di chi è il neo assessore a Roma Massimo Colomban. Invece Pizzarotti se ne va proprio, ha sbattuto la porta, se ne va dal Movimento 5 Stelle, tradito da arrivisti, dice lui. Beppe Grillo in maniera molto dura gli risponde: goditi il tuo quarto d'ora di libertà, ciao. In maniera molto secca, tanto che Pizzarotti risponde: sei quasi inumano in questa replica così fredda. Va bene, è finita un'avventura che era traballante, anche quella di Pizzarotti all'interno del Movimento 5 Stelle da un po' di tempo, è finita con porte sbattute. Lasciamo la politica, purtroppo la cronaca registra questa violenza doppia a Roma, soprattutto la turista australiana picchiata e stuprata. Il Messaggero dedica 2 pagine, c'è anche un'intervista a questa donna che racconta di essere stata colpita in pieno viso ed è cominciato il mio orrore, racconta in questa intervista al Messaggero, e le persone che l'hanno violentata sarebbero anche non una ma di più. E infatti dice: mi hanno aggredito, erano una furia, un terribile fatto di cronaca. Mentre vi segnalo su Libero una pagina, faccio vedere anche in diretta su il mio canale Facebook, c'è una signora che attraverso un avvocato si è rivolta al giudice di pace e ha detto: al gratta e vinci ho perso 210 biglietti da 20 euro cada uno, ma non era chiara la probabilità di vincita e quindi lo Stato mi deve restituire i soldi, e ha vinto. Gratta e perde 210 volte, ma lo Stato gli ridà 4.000 euro. Una giocatrice di Salerno fa ricorso, il giudice la risarcisce. Su Italiandi non c'erano le reali possibilità di vincita. Fatelo anche voi, cari ascoltatori. Ma siamo alla carta costa, no, ancora. Il delfino Indy per il secondo giorno sul secolo XIX. È stato mandato via dalla mamma, pare, e alla procura di Rimini i PM dicono: faremo ricorso in Cassazione. Quindi non solo i fascicoli, non solo gli avvocati, non solo i bolli, non solo i faldoni, non solo i PM, non solo i magistrati, ma pure la Cassazione, il terzo grado per un delfino. Ma chi se ne frega!